24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca! Chiedi a Rocco che impressione gli fanno i suoi compagni, vivranno insieme tre mesi. Una cosa a capo. Niente, voglio salutare mia mamma. Ciao, ma mamma, dai, ti amo, mamma. Questo è l'alternativo. C'eravamo tanto amati, Daria Bignardi e Rocco Casalino, ve li ricordate all'epoca del Grande Fratello, prima edizione? Rocco, Rocco, di qualcosa prima di entrare nella casa. Saluto la mamma, saluto la mamma. Oggi Daria Bignardi conduce le invasioni barbariche, Rocco Casalino fa parte del comunicazione del Movimento 5 Stelle al Senato, oggi fa un'intervista a Repubblica e dice: il mio dovere, il mio lavoro è difendere e tutelare quelli del Movimento 5 Stelle. Galeotta fu un'intervista dalle invasioni ad Alessandro Di Battista, no? Con quelle domande insistite e insistenti sul padre di Di Battista, fascista. E ieri Rocco Casalino non ci ha visto più, ha scritto: e che ne penseresti, cara Daria Bignardi, se quando ti fanno un'intervista ti chiedono di tuo suocero, il padre di tuo marito Luca Sofri, Adriano Sofri, no? Condannato per il delitto calabrese. C'eravamo tanto amati, Rocco, non si può risentire, non si può risentire. La mamma, saluto la mamma. Rocco, che fai? Di qualcosa, Rocco, prima di entrare nella casa. Chiedi a Rocco che impressione gli fanno i suoi compagni, vivranno insieme tre mesi. Una cosa a caso. Niente, voglio salutare mia mamma. Una cosa a caso, saluto mia mamma, va bene, va bene. Questo è 24 mattino, sto morendo. Sto soffocando, vabbè. 24 mattino, eccoci, le 6:32 minuti, è il momento di aprire il nostro Parlamento, dai. E salutare i nostri primi ospiti. Il caffè volentieri a tutti quanti. C'è Nicole Minetti alla Moca. O all'espresso, lì come si chiama, la macchinetta del caffè, va bene. La capissima della Padania, Aurora Lussana, buongiorno, benvenuta nella seconda radio più incredibile dell'universo, Radio 24, eccoci Aurora. Un saluto a te Milan, un saluto agli amici di Radio 24 e vabbè, una cosa a caso, un saluto a mio papà che è sul camion e magari ci sta ascoltando. Grande, come si chiama tuo papà? Ermanno. Ermanno, un grande abbraccio anche da Mario Adinolfi al camionista Ermanno. Grande Ermanno, anche perché mio padre non mi si fila proprio e sta dormendo. Vabbè, bravo Ermanno, almeno. Bravo, chi si fa il papà. Dove sta facendo il camionista in questo momento, secondo te? Il tragitto tipico? Fra una delle tantissime piattaforme logistiche dell'ortofrutta in Lombardia. Ah, l'ortofrutta, un abbraccione a Ermanno che ci sente, c'è anche un codice da camionisti di quelli, non so, come si chiamano quelli, cioè, come si chiama il suo camion, no? Ah, so, Padania 71. Non posso perché è una parolaccia in bergamasco, quindi non posso dire. E vabbè, cioè una parolaccia grave, una roba... No, così siamo un po' goliardici, siamo un po' e dilla se non è una cosa, se non è una cosa gravissima, dilla. Va Laura Barbù. Ah, va Laura Barbù, vabbè, dai, questa pure Adinolfi l'ha capita, no? Mica lo scemo, pure Adinolfi l'ha capita. Vabbè, di Roma, cioè va Laura Barbù, magari, mamma mia, subito si sveglia con questo modo. Si sveglia da 20 secondi, abbiate pietà. Ecco, appunto, va Laura Barbù, allora si potrebbe dire va Laura Barbù a Mario Adinolfi. Oh, c'eravamo tanto avanti, hai visto Rocco Casalino? Mamma mia, Mario, come tira fuori le unghie, eh? Io dico bravo Rocco Casalino, sinceramente, cioè non appena ho visto quell'insistenza della Bignardi sul papà di Alessandro Di Battista all'intrasmissione, ho pensato perché non gli piazza adesso una bella zampata vera, insomma, stava tutta, e invece Di Battista, ma non ti vergogno, ma non ti imbarazzo. imbarazza tuo padre, ma non ti, cioè, non, come fai a fare una domanda del genere? Cioè, una cosa incredibile. E non farla una volta, farla 3-4 volte, insistere, voler mettere in difficoltà. Effettivamente, io non mi sarei tenuto, francamente. Riavvolgendo tenuto. Il nastro, pensa se Di Battista avesse risposto: a te non ti imbarazza tuo suocero? Ma certo, sarebbe stato naturale, un momento di grande, grande televisione. Grande televisione. Sì, sì. E forse avrebbe imparato qualcosa da Riabbigliati e anche Adriano Sofri, insomma, che ieri, perché ho scritto questa cosa, vivo su Facebook a dibattere con me dicendo che lui è diverso da me, ma insomma io ho detto sì, in effetti sì, io ho detto, in effetti molto sì. Diverso, gli ho spiegato perché, da quel momento è stato zitto. Ah. E così forse farà Adriano Di Battista. Ah, attenzione, non sapevo di questo confronto ad Adinolfi Sofri, insomma vi siete sì, proprio... Sì, c'è stato un bello scazzo, come si dice. Un bello scazzo di quelli potenti. Tu Aurora, ma che dobbiamo parlare? Cioè, vi rendete conto, in Italia oggi ci sono 4, 5, 6 pagine su i grillini, non grillini, i violenti, non violenti, la Boldrini. Insomma, il tema politico è questo, cara Aurora Lussana. No, io l'ho vista l'intervista della Bignardi, a parte che insomma durata quasi un'ora l'intervista di Battista, la settimana prima c'era Salvini e vi ricordate, insomma, aveva poi portato anche le figlie della Chienge, aveva messo in piedi quel teatrino lì. Tutte contro la Bignardi, devo difendere la Bignardi a questo punto. Abbiamo il Premier, cioè c'è il Presidente del Consiglio nel nostro paese che ieri era a Doha, era nel Qatar a piazzare all'Italia, a svendere un po' anche il nostro paese che vuol fare il museo islamico sul Canal Grande, e da Doha ieri che cosa ha fatto? Ha difeso la Bignardi, da Doha, che io mi immagino lì quella gente lì, gli emir che sono sceicchi, gente seria, ma avrà detto, ma chi è questa Bignardi? Ma chi quella gente lì? Sentiamolo, Letta sulla Bignardi. Ce l'abbiamo. Se devo fare un solo commento su quello che è successo oggi in Italia, ne faccio uno solo, ma l'ho trovato talmente scandaloso che non posso non commentarlo, e cioè il fatto che ho letto di frasi folli di Beppe Grillo nei confronti di una giornalista, Daria Bignardi, nei confronti di suo marito, la corsa verso la barbaria che Beppe Grillo ha intrapreso e che sta portando avanti pare essere senza fine. Parte la barbarie, ma insomma effettivamente no, vabbè, adesso non facciamo qua i puntigliosi, però effettivamente Maria Adinolfi, una sola cosa devo dire dell'Italia, una, da qua, da Doha devo dire solo una, ma questa la devo dire perché è scandalosa, è Daria Bignardi, no, ma con tutto il rispetto, una cosa incredibile. Poi questa è la deriva contro la barbarie, cioè, si va verso la barbarie perché si dice una cosa da riabbignare, non lo so, veramente sono abbastanza sconcertato da questa vicenda, o forse spiega un po' di cose, non lo so, di quanto quell'agglomerato abbia il suo potere, quindi ci si tiene tutti, insomma. No. È strano che il Presidente del Consiglio da Doha una cosa deve dire. Vabbè, ma era un modo per criticare Beppe Grillo e Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, non è che era... Cioè, quello è il modo migliore. Ieri Beppe Grillo aveva 100 motivi per essere criticato, 100, non uno. C'era stata tutta la storia delle cose del video sulla Boldrini, c'erano 100 motivi per criticarlo, il motivo è una cosa devo dire, grande Daria Bignardi, un po' strano. Vabbè, ma tutta questa vicenda, tra l'altro, ecco, dov'è il titolo della Padania? Ce l'avevo qua, mamma mia, cos'è che ce l'avevo? Eccolo qua, c'è la foto di Enrico Letta, Vucumpra, ma che non vi va bene manco che ci sia qualcuno che salva l'Italia? Vi dà fastidio che sono arabi, questa è la verità, Aurora, vi dà fastidio che sono emiri, che sono sceicchi, che hanno i turbanti, questo vi dà fastidio. Beati loro, I sette emirati arabi sono paesi in crescita, domineranno il mondo, anche il Qatar sta comprando tutti... Fanno i mondiali di calcio, e allora? Ma infatti vinceranno loro, però... Allora, facci fare una battaglia di resistenza anche culturale, perché andare là e come merce di scambio offrire un museo islamico a Venezia... Mi è sembrato anche un modo per ridicolizzare la nostra identità. Possiamo difendere la nostra identità, lo so che qui bisogna difendere la papessa Boldrini, l'allarme nel paese sono i grillini, però insomma lasciateci fare queste battaglie di identità. Capito Mario, sono loro i leghisti a fare queste battaglie di identità, a salvare la Lega, pure il museo islamico a Venezia. Tu che fai? Tu dormi, invece qua diamo agli emiri, no? Fanno un po' tenerezza, però mi piace molto perché si impegnano tanto. Adesso andranno a prendere il 3% alle europee, però con tanto impegno dietro, e quindi se lo saranno sudato tutto. Ricordo c'è lo sbarramento al 4, però. Ah, questo non lo sapevo, il grandissimo esperto di legge elettorale, anche di legge elettorale europee, caro Mario Di Nolfi. Sbarramento al 4 per entrare a Strasburgo? Sbarramento al 4 per entrare a Strasburgo, quindi ci vuole ancora più impegno, caro Salvini e cara Lussana, perché per il 4 non lo fate. Cara Aurora, state fuori pure da Strasburgo, mo, mi sa. Ma insomma, guarda, la Lega 2 anni che è all'opposizione, rimarrà all'opposizione. Lo sai che la Boldrina ha definito più la Lega una minoranza gassosa? Più che all'opposizione rischiate proprio di rimanere fuori, qua mi sembra di capire. Si rimane fuori un giro, ma non è che le idee devono essere necessariamente identificate con delle poltrone, dei seggi nazionali, europei. Io so solo che allo scorso congresso della Lega, il 15 di dicembre a Torino, c'erano tutti i movimenti identitari e sovranisti europei che non sono andati da Grillo, ma sono venuti al congresso della Lega. Quindi insomma, questo significa che ci sono anche battaglie identitarie che vanno fatte. Comunque, insomma, io vorrei tornare su questa vicenda facendovi una domanda ben precisa. Caro Mario Di Nolfi, secondo te, come dice il Movimento 5 Stelle, cioè Laura Boldrini non è più super partes? Ieri il senatore Vito Crimi, ieri nella mia trasmissione Funamboli, tu sicuramente eri in un'altra trasmissione. L'ho vista. Ma che l'hai vista? È incredibile. È incredibile, la seconda migliore trasmissione dopo Quinta Colonna, ovviamente. No, la certo. Vabbè, insomma, comunque ha detto Vito Crimi, si deve dimettere Laura Boldrini addirittura. Tu che pensi di tutta questa vicenda? Ci sarà un punto fermo che alla fine dobbiamo mettere e non parlarne più? Per non parlarne più Boldrini non dovrebbe parlare più, perché francamente l'intervista da faccia è imbarazzante, eh? Cioè, il momento incredibile oscilla tra l'intervista da Fazio e questo famoso tweet, che viene detto un tweet fake, cioè falso, che in realtà non è altro che la trascrizione di una cosa che ha detto da Fazio. Cioè, sì, appunto. Che stanno sul sito di Beppe Grillo sono potenziali stupratori, e se vado a vedere ci sono 20 secondi di trasmissione da Fazio e qui dice esattamente questa frase. Quindi non lo so, mi sembra molto in confusione il Presidente della Camera, e mi pare ovvio che il Presidente della Camera, che è un'istituzione di garanzia ed è un'istituzione di garanzia per tutti i gruppi politici, non possa andare in una trasmissione a fare un attacco frontale di 25 minuti a un solo gruppo politico. Questo francamente non cioè, la grammatica istituzionale dovrebbe essere chiara, non si fa, non lo puoi fare, non è nella tua titolarità che fai una cosa del genere, oltretutto con quell'andatura un po' imbarazzata da preside a cui hanno occupato l'aula, insomma, non sembrava un presidente della Camera, anche l'eloquio era francamente instabile, non sapeva bene cosa dire, era addirittura, vabbè, l'ho trovata veramente te la faccio risentire ancora, perché parla di pestaggio mediatico. Senti Laura Boldrini. La mia solidarietà a Bignardi, Augias e Fazio, perché è in corso un pestaggio mediatico nei loro confronti. La rete è una grande opportunità, è uno spazio bellissimo e non può essere usato in questo modo violento. Vabbè, quindi ancora i soliti, no? Tutta la mia solidarietà. Ma fatela finita questa cosa, ma una cosa veramente, la Boldrini, il pestaggio mediatico. Cioè, fare il parallelo Movimento 5 Stelle fascismo è una cosa da crimine politico veramente intollerabile. Eccola. Ma qualcuno l'ha visto il fascismo o no? No, ma anch'io sono d'accordo che si usano questi termini ormai spropositi. Lo dice il Presidente della Camera, lo dicono gli altri gruppi politici, l'ho detto anche al mio amico Matteo Renzi, non fare questo errore. Intanto regali una valanga di voti al Movimento 5 Stelle. E lui l'ha già fatto, l'ha già detto. Squadristi. Questa cosa va assolutamente disinvestigata. Il Movimento 5 Stelle è in realtà un antidoto alla violenza, non è fascismo, è un po' il contrario. È il contrario. Cara Aurora, hai capito? Sì. Questo? No, come sì. No, allora, premesso che, come ha ben dichiarato in un'intervista Marine Le Pen, ormai Grillo è un tribuno sfiatato, il grillismo è un'eruzione. Vostro faro ideologico ormai, Marine Le Pen. No, vabbè, è una bella analisi che condivido. Detto questo, la Boldrini, che noi della Padania abbiamo definito la papessa, perché da subito non ci è piaciuta, e infatti la Lega, a differenza dei grillini, non ha votato la Boldrini quando è stata candidata alla presidenza della Camera, mentre i grillini, anzi, hanno detto che lei veniva dalla società civile, andava nei campi profughi a salvare il mondo, ok? È totalmente inadeguata, perché vabbè, a parte che mettere al bando così i grillini li fa diventare dei martiri, puoi fare la pianina così, mi attaccano su sul loro blog, vuol dire non essere all'altezza del privilegio di cui si sta godendo la pianina. Senti, a proposito Aurora, Aurora, a proposito, anche tu subisci un pestaggio mediatico tutti i giorni, vedo magari alcuni commenti su di te, su di me, di noi, che vorrei sapere se si cambia dalle europee. Attenzione teniamola per dopo il traffico, questa dopo il traffico e dopo la segreteria telefonica. Intanto, cara Aurora, c'è un fake, secondo me. A proposito di fake, ci scrive uno che scrive: sono Ermanno, mamma mia, esordisce così via sms: dia quella sciagurata di padana di andare a lavorare invece di stare lì. Lo so, inizia con un 335 il numero di tuo papà? Può essere. Come? Poi, i primi 335, poi i primi due numeri dopo il 335 cosa sono? Non lo so, guarda, mater sempre certa, non lo so, no, ma non... I primi tre numeri dopo 33556, inizia così il cellulare di tuo papà? Sì. No, non ci posso credere, non ci posso credere. E le ultime due cifre del cellulare sono 49. Mi pare che sì. Ma dai, è proprio il papà di Aurora, Mario, che ci dice che è una sciagurata. Non ci posso credere, vabbè, andiamo al traffico. Mario, cioè, ci sono i tuoi amici della segreteria telefonica tra poco. 24 mattino. Buongiorno Alessandro, sono Robin Hood. Qui mi pare che c'è qualcuno che ruba ai poveri per dare ai ricchi. Ciao, fate qualcosa! Ai Roma, ladrona dei mastrapasqua e sfruttatori vari, dei politici fannulloni e incapaci, poiché gli onesti a punir son lenti, muovensi il Tevere suoi affluenti, perché annieghi in te ogni corrotto. Beppe Grillo è stato un mediocre comico, ma si è evoluto ed è diventato un grande tragicomico. In Italia la burocrazia è come la legge, si interpreta per gli amici e si applica per i nemici. Ma sulla Boldrini, vabbè, hanno detto delle cose. Ma chiedete a me cosa farei in macchina da solo con Berlusconi. Vorrei parlare con Mastrapasqua. Sono un pensionato di 72 anni a 650 euro al mese. Io vorrei dire a questo cornuto, se me ne mandasse quello che si è rubato, un po' per volta. Grazie. Milan, ma hai sentito Letta che dice all'estero che la crisi in Italia è finita, che l'Italia è uscita con le sue forze dalla crisi, niente, siamo tutti bene, ma gli italiani com'è che non se ne sono accorti? Per fortuna all'estero non si sono accorti di come gli cresceva il naso. Ho il solito Twitter per la Boldrini. Vabbè, c'era anche un editoriale in conclusione, caro Mario Di Nolfi. Una bella cozzaglia delirante oggi hai messo, cioè, stiamo scendendo, vabbè, fa freddo, stando in casa, da un po' di tutti male, noi li ascoltiamo sempre peggio. Pubblico di merda. Eccala. Pubblico di merda. Eccala. Pubblico di merda. Peraltro li considero tutti personalmente responsabili per il prossimo presidente dell'Inps, che guadagnerà il doppio di Mastrapasqua e non saprà tenere i conti. Però dai, Mario, tu la settimana scorsa dicevi, ma poi anche sta roba della laurea comprata. Ma poi sei laureato, ma chi se ne frega? Ma come chi se ne frega? Dai! Il 24% del PIL italiano. Quanto prende un amministratore delegato in banca qualsiasi? Queste sono le stupidate assolute a gentaglia tira fuori. Gentaglia, ma ho capito. Gentaglia, ma dai, ma la laurea, ma su. Ma chi se ne frega? Ma come chi se ne frega? Era rilaureato, comunque è uno di quei pochi, si era pure rifatto gli esami, io sì. Com'era. il dato fondamentale è stato indicato, voi e il vostro popolino della segreteria telefonica, basta Pasqua come il male di questo mese, vediamo il prossimo e ve lo meriterete. Oh, tutto, cara Aurora, anche voi che siete stati contro Mastra Pasqua, voi non siete stati mai teneri, eh? Adesso vi beccate 3 U, pare, che vi, ti stia bene. Vediamo 3. Quanto costa 3 U, vediamo 3 U, quanto 3 U. Costa 3 U. O Bonanni forse, dalla CISL a... Da Cristi, puntano da sempre lì. Vabbè, che vuoi fare? Vuoi mettere chi? Vuoi mettere Umberto Bossi all'INPS? Chi dobbiamo mettere ora? Ermanno all'INPS! Anche Bossi non è laureato. Esatto, non tocchiamo questo tasto, infatti, dalla vicenda finta laurea, eccetera. No, a proposito... Vabbè, a parte che comunque non ho capito se è di Nolfi. Vuole il Museo Islamico a Venezia. Venezia no, Museo Islamico, intanto le rive, l'isola di San Michele. Ma che gli frega ad Adinolfi del Museo Islamico? Ma ci sono i soldi per restaurare il Bucinca. No, voglio sapere se... Ma che fastidio ti dà un museo, adesso al di là delle battaglie culturali, se c'è un museo islamico, ma se è una cosa culturale, ma che ti frega, Aurora? Ma che fastidio ti dà? Allora, da sempre Venezia, cioè, cosa c'è, il fondaco dei turchi, ha sempre avuto... Ma infatti Venezia poi, tra l'altro, ha una tradizione islamica... Dall'Oriente. Ma appunto! Ma non è quello... qual è il problema? Ma la cultura straordinaria... No. Ma è Letta che va là e promette quelle robe lì, no? Che comunque è la nostra identità. Vabbè. Svende l'identità. Adinolfi, ti frega qualcosa? Se potessi fare uno scambio fra soldi degli Emirati e un museo islamico, gliene faccio 30. Anche sotto casa si fa un museo islamico in cantina. 35, in cantina te li vedi col caftano. Adinolfi che fa pure, esatto, fa pure occhio pure da parte della pecca. Addirittura si mette il caftano e li riceve, fa anche come doppio lavoro, fa il custode del museo islamico. Adinolfi ti versa il tè alla menta, no? che gli piace pure a Senti, ma Mario, ti candidi o no alle europee? No, ma neanche morto, ma figuriamoci, io è molto più divertente fare questo giochino qui, no? Si chiacchiera, si scrive, si guadagna pure più soldi, no, per carità, mai nella vita. Finita la storia. E invece Aurora Lussana ti candiderai mai? Ma dai. Certo che si guarda. Dai, candidati. Capolista del listino bloccato dell'Italicum che contestano. Ti candidi alla prossima, Aurora? Beh, io c'ho da dirigere la Padania, tre Padania al sito, faccio la spending review, bisogna... Vabbè, si candida, dai. Infatti non ha neanche risposto. Così si candida. Vabbè, dai. Aurora, ricordati di noi quando sei in Parlamento, magari un posticino da portaborse, qualcosa. Comunque non ci sono deputate donne alla Camera. Cosa vuol dire? A proposito della polemica delle deputate del PD. Cosa vuol dire non ci sono deputate donne? Non ci sono deputate donne. Ma che vuol dire? Leghiste. Leghiste. Non ci sono. Infatti. Non avete una deputata. Bisogna rimediare subito. Ma Lussana candidata, dai. No, sai che appunto... Capolista in Brianza, dai. No, in Brianza, a Bergamo, al limite, a Bergamo. Vabbè, in attesa di sciogliere questo nodo, io vi devo salutare, grazie. Mario Adinolfi, di che parli oggi alle 8 a Radio Yes? Di Sofri Bignardi, ovviamente. Oh, mamma mia. C'ho Alessandro Tallutti. Ma chi se ne frega, mamma mia. Va bene, grazie Mario Adinolfi, grazie Aurora Lussana, alla prossima, un grande saluto a Ermanno, il papà di Aurora, alla prossima, tempo di giornale radio. 1, 2, 3, adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:17 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, forza, lo schema Allegri è sempre quello più valido, dai, fuori dai letti, su dalle poltrone, dalle sedie, in macchina, in treno, a piedi, in bicicletta, in moto, insomma, andate a lavorare, debosciati d'Italia.

Buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Voi, diciamo, due o tre cifre le ho prese dall'articolo di Panorama che era di maggio, ma me le confermi se è vero? Voi avete circa 50 dipendenti, un giro d'affari di 500 milioni di euro, queste sono le cifre che possiamo dire? Sì, le confermo queste cifre. Perfetto. Allora, intanto, Cobianchi, cerchiamo di capire, quando parliamo di crediti arretrati, anche qui ci sono tante cifre, di che cifra più o meno parliamo di crediti che le imprese devono avere dalla pubblica amministrazione? Dunque, è entrare in un ginepraio, perché allora ci sono due stime importanti, quella della Banca d'Italia che dice che sono 91 i miliardi che lo Stato deve alle imprese e la stima della CGA di Mestre che parla di 120. Io sono più propenso a pensare che siano una via di mezzo tra 91 e 120. Sicuramente non sono 91 perché in questa stima della Banca d'Italia non sono compresi i debiti sanitari, ad esempio, che sono quelli più difficili da riscuotere. Però diciamo, facciamo un 100 miliardi, giusto per diciamo capire. Un 100 miliardi. Insomma, 100 miliardi sono una cifra notevole. E questa vicenda dell'Unione Europea, cioè questa apertura di primo passo verso una possibile infrazione, può servire a qualcosa per sbloccare la situazione oppure sono pastoie burocratiche dalle quali non ci si toglie? Guarda, credo che servirà a poco, perché ti do degli altri numeri che forse fanno capire la situazione nella quale siamo. Allora, diciamo che i debiti della pubblica amministrazione sono 100 miliardi. Tra il 2013 e il 2014, prima il governo Monti e poi il governo Letta hanno stanziato complessivamente, attraverso una serie di provvedimenti legislativi, 47 miliardi e 200 milioni per pagare questi 100 miliardi. Quindi si può dire, buono, no? Circa la metà. Ecco, invece non è vero, perché di questi 47 miliardi, 27 sono stati effettivamente stanziati a bilancio, quindi solo 27. Sì. Di questi 27, solo 24 sono stati dati alle amministrazioni pubbliche che devono pagare i creditori e di questi 24 solo 14,2 sono andati effettivamente alle imprese. Quindi che aspettavano un decimo, alla fine, per il momento un decimo di quelli, più sì, o meno. Un decimo, no? Tieni presente che con questo ritmo di pagamento ci vogliono 7 anni per pagare tutti i 100 miliardi, quindi uno che ha staccato una fattura nel 2013 a questo ritmo di pagamento sarebbe pagato nel 2020. Insomma, allora Exergia fornisce energia, tra l'altro amministratore delegato è Corrado Nela, come detto 15 milioni era la cifra che avevo letto sul Panorama a maggio di crediti che voi dovete ancora riscuotere dalla pubblica amministrazione, com'è? Va meglio, va peggio rispetto allora? No, va benissimo, da 15 siamo passati a 16,5. È assolutamente perfetto il trend, diciamo che di questo passo noi non arriveremo nel 2020 come diceva il dottor Cobianchi. Ma insomma 16,5 milioni, mi faccia capire, perché io ho letto, lei ha dei clienti importanti, se non importantissimi nella pubblica amministrazione, me ne può snocciolare qualcuno? Sì, volentieri, guardi, diciamo che la maglia di leader ce l'ha l'ANAS che ci deve 1.247.000. E poi passiamo a tutta una serie di posizioni oramai storiche, l'Università degli Studi di Torino, la Croce Rossa, la stessa RAI, i comandi dei Vigili del Fuoco, l'Aeronautica, la Polizia, le case circondariali, diciamo che c'è una lunghissima lista di nominativi, siamo nell'ordine delle 7-8 mila posizioni più o meno. 7-8 mila posizioni. Ovviamente non pagano perché? Cosa le dicono? Non ci sono i soldi, molto semplicemente. Non pagano, prendono delle fantastiche buste gialle con scritto ufficio del governo, prefettura di piuttosto che casa circondariale di e scrivono in relazione al credito da voi vantato, vi confermiamo che lo stesso è assolutamente vero e reale, ma che non ci sono i fondi e quindi per cortesia non continuate a sollecitarci perché intanto i soldi non ci sono. Li obbliga anche a spendere dei soldi per risponderle, insomma, mi sembra di capire. Scusi se continuo nell'amarezza, ma sento che lei, diciamo, nonostante l'amarezza, immagino, da imprenditore, a doversi trovare 16 milioni e mezzo di esposizione di soldi che dovrebbe ricevere, insomma, no, non demorde da questo punto di vista, non le manca lo spirito, diciamo così, Nela. No, diciamo che è l'ultima cosa che ci rimane, non avendo i soldi ci rimane lo spirito. Ma vede, io una piccola nota, con le cifre che, di cui parlava prima il dottor Cobianchi, in realtà noi abbiamo assistito a una grossa presa in giro, perché quando hanno parlato di fondi messi a disposizione hanno sempre usato una terminologia che è assolutamente impropria, cioè il governo ha sbloccato 20 miliardi di fondi, i debiti non si sbloccano, i debiti si pagano. Quindi quelle, tutti i famosi annunci che sono stati fatti nel corso del 2013 sono stati in qualche modo degli annunci propagandistici, cioè se io devo pagare 100 euro a lei, vengo con 100 euro e le do 100 euro, sì. Non è che sblocco 100 euro, pago 100 euro, cioè prendo i soldi e pago, sì, viene data quasi, viene data quasi la sensazione che dare ciò che è dovuto da parte della pubblica amministrazione sia quasi una sorta di concessione con questo sblocco dei soldi. Cosa vuol dire sbloccare i fondi? Si sblocca una serratura quando non funziona, ma non si sbloccano i fondi o ci sono e si usano, oppure per me il pagamento vuol dire se domani mattina posso andare presso un istituto di credito e incassare i miei crediti. Lo sblocco è un qualche cosa che non capisce. Nella... Senta, no, lei è passato anche, raccontava sempre a Panorama, a dei metodi in qualche volta estremi, e cioè non mi pagate, sono arrivato a tagliare, come si suol dire, tagliare la luce, no? Spegnere, certo, e basta. Certo. Cioè in quali casi, per esempio? Allora, essenzialmente i POD, che sono i point of delivery, cioè sostanzialmente l'indicativo del contatore, per farlo capire al grande pubblico, si dividono in due grandi categorie, quelli non disalimentabili perché sono ritenuti di pubblica utilità e quelli che, ancorché riferibili a soggetti pubblici, sono disalimentabili perché evidentemente non hanno il requisito della pubblica utilità. Mm. Banalmente all'interno di un carcere ovviamente i sistemi di allarme non sono disalimentabili, se no scappano tutti i detenuti, mentre invece i contatori relativi, non lo so, ai magazzini piuttosto che ai servizi ausiliari possono essere disalimentati. Quindi tutto dove era possibile, quindi dove la normativa lo prevedeva, noi abbiamo fatto istanza di disalimentazione al distributore per quei POD che non ci venivano pagati. Qui per esempio, non so, in un carcere una volta lei ha lasciato al buio, sì, o almeno alcune zone del carcere. Alcune zone del carcere, per esempio il carcere di Parma, abbiamo sospeso le erogazioni in alcune zone del carcere, in quelle utenze che erano appunto classificate come disalimentabili, cioè non con una sorta di tutela superiore. Però del bene comune. Lavorando, non so, con l'ANAS, di certo le strade non può staccare i lampioni, perché è una questione di sicurezza. Sicuramente anche. No, e poi si assistono anche a situazioni abbastanza curiose, perché abbiamo disalimentato alcune utenze e poi mi sono stati fatti notificati avvisi di garanzia per sospensione di pubblico servizio, ecco. Situazioni veramente che hanno limitato. Ah, paradossali, quindi insomma è dovuto anche rispondere a delle accuse da questo punto di vista. Certo, perché se sospendi un teorico pubblico servizio, perché in questo caso parliamo dello stadio di Genova, sicuramente non è un pubblico servizio, però poi dopo vieni anche accusato, oltre che non prende i soldi, viene anche accusato di sospensione di pubblica servizio. Sì, effettivamente, Cobianchi, la questione di sbloccare i pagamenti, visto che anche le parole hanno un loro significato, dice Corrado Nela, insomma, ma che sbloccare? Insomma, dovreste pagare ciò che gli imprenditori devono avere per legge. No, ma ha perfettamente ragione, dottor Nela, sbloccare i fondi non ha nessun significato. E ribadisco che su i 100 miliardi di debiti totali sono stati pagati per ora soltanto 14, quindi stiamo parlando di un decimo, insomma. Ma il dottor Nela, che saluto, ha un altro cliente che non ha citato, un cliente famoso e importante, che è la Presidenza del Consiglio. Cioè, noi abbiamo la Presidenza del Consiglio che fa molti, insomma, discorsi sulla uguaglianza, i diritti, la giustizia sociale, poi arriva la bolletta della luce e non la paga. Ecco, insomma, è la situazione. Quali sono questi clienti? Ma proprio Palazzo Chigi, Nela? Abbiamo delle utenze che sono intestate alla Presidenza del Consiglio. Per esempio? Cioè, nel senso, non proprio Palazzo Chigi, mi sembra. Beh, no, non proprio il contatore dell'ufficio del Presidente, ma insomma qualche altra utenza comunque riferibile. Ma e non pagano, anche lì no. Il dottor Cobianchi ha segnalato questa utenza, diciamo così, un po' d'immagine, ma banalmente ce ne sono tante altre, cioè la polizia è la polizia, i carabinieri sono i carabinieri, insomma i vigili del fuoco sono i vigili del fuoco, quindi insomma sono degli organismi istituzionali che non è pensabile che possano non pagare insomma importi anche rilevanti. I vigili dei fuochi di Venezia, parliamo di 300.000 euro. Però sa, ci sono effetti 300.000 euro i vigili, solo per dirgliene uno, ecco, i vigili di Venezia, i vigili urbani di Venezia, esatto. Che la non questura, ce ne vogliono, cioè evidentemente non hanno soldi. Cosa possono fare? No, non hanno soldi, sicuramente non hanno soldi, lo scrivono. Poi la questura ci diceva? La questura di Parma sono 335.000 euro, il Ministero dell'Interno, quindi istituzione sì, massima, 363.000 euro, questi sono importi. Poi bisogna capire dove sono dislocate fisicamente queste utenze, però sono comunque ascrivibili al Ministero dell'Interno. No, ma è chiaro, ovviamente, ecco. Però ci sono effettivamente delle utenze un po' più simboliche, no, Cobianchi? Leggo anche l'INPS, che di questi tempi, come sa, Corrado Nela è abbastanza attenzionato dagli italiani, anche l'INPS le deve dei soldi, anche a lei, diciamo. Non ci facciamo mancare nulla, anche l'INAIL ci deve 350.000 euro, cioè non lesiniamo nel fare credito allo Stato. Ecco, l'elenco è lungo. Allora, con Corrado Nela, che voglio ricordare, amministratore delegato di Exergia, e Marco Cobianchi di Panorama, riprendiamo tra un attimo dopo la pubblicità. 800 24 00 24, il numero verde se volete buttare insomma in questa arena un po' impazzita, sembra di raccontare un paese. Io sempre quando faccio queste trasmissioni dico, ma pensa te se ci ascoltano, ecco Bianchi, pensa se ci ascoltano da, non so, Francoforte, pensa se qualcuno in stream ci ascolta da non so da... avrebbe effetti sullo spread sicuramente. no per carità, no, accusarci anche di questo, di far aumentare lo spread fino a quel punto non ce la facciamo. Comunque dopo la pubblicità rientriamo, state con noi 24 mattino. Allora, alle 8:37 minuti stiamo raccontando con Marco Cobianchi di Panorama e con Corrado Nela, che è amministratore delegato e socio di Exergia di Gallarate, società che vanta 16 milioni e mezzo di crediti arretrati alla pubblica amministrazione. Stiamo raccontando questa vicenda che coinvolge molti imprenditori, molti italiani, e che, come ci ha detto Cobianchi, è una cifra stimabile attorno ai 100 miliardi di euro di soldi, di fatture non pagate dallo Stato alle imprese. Vorrei salutare Marco da Cuneo, ci ha chiamato all'800 24 00 24. Tra l'altro, Marco, mi scrivono, lei sia presidente anche di un'agenzia territoriale per la casa? Sì, l'ex Case Popolari. Ah, sì, buongiorno, mi dica. Buongiorno, sì, no, noi, guardi, era interessante il vostro argomento perché è un tema molto sentito in questo momento, soprattutto per le aziende. Noi possiamo vantarci come agenzia di pagare i fornitori a 30 giorni, 30-35 giorni, con un problema però, da quando il DURC risulta regolare. Sì. E questo è un problema che lo Stato crea chiaramente per evitare dei problemi agli enti che devono incassare, gli enti previdenziali, però crea un enorme problema alle aziende, perché io come ente pubblico, come normativa, richiedo direttamente il DURC. Se l'impresa ha un problema e non riesce ad essere regolare, io devo bloccare il pagamento. Ci spieghi cos'è il DURC ai nostri ascoltatori, perché sanno tutti. Vabbè, il DURC è il documento unico di regolarità contributiva, ovvero viene richiesto dalla pubblica amministrazione, ma anche dai privati, o per poter presentare una pratica edilizia in comune, per capirci, e se l'azienda non ha versato ad esempio l'INPS o ci serve a spiegare che l'azienda è in regola, diciamo, con tutti gli obblighi, esatto, di legge. Esatto, e quindi noi richiediamo il DURC non è regolare, i tempi si allungano. Certo, però lei dice noi siamo in linea con quello che chiede l'Unione Europea in pratica, no? Questi 40, questi 30 giorni, voi siete sui 30-35? Noi riusciamo a pagare in quei giorni. È anche importante sottolineare che noi non siamo soggetti a patto di stabilità in quanto agenzia ente ausiliario della Regione Piemonte, quindi questo è un altro grosso problema che hanno le pubbliche amministrazioni, perché essendo quest'anno e anche gli anni scorsi il patto di stabilità sulla cassa, se io non riesco a rispettare il patto di stabilità non posso pagare, quindi no, il governo non può dire io sblocco i 100 miliardi e poi non sblocca il patto di stabilità. E questo è vabbè, problema. È chiaro, il sblocco, sempre questo, utilizzare questo verbo. Anche Simone da Verona ci scrive: abbiamo fatto lavori per 5 milioni a una municipalizzata di Padova, in un anno hanno pagato 1 milione, il resto forse lo vedremo tra 18 mesi. Lei, Nela, di queste storie chissà quante ne ha sentite, le vive anche quotidianamente, no? Sulla propria pelle. Le viviamo assolutamente in maniera quotidiana. Infatti prendo spunto da quanto diceva l'ascoltatore di Cuneo, se ho capito bene. è un problema di serietà, lui ha sollevato un problema reale, è un problema di serietà, lo Stato pretende ma lo Stato non dà. Allora, o ci mettiamo a fare le persone serie e quindi tutti ci comportiamo in maniera seria, oppure giustamente, come diceva, io dovrei essere assolutamente regolare in tutti gli adempimenti nei confronti dello Stato e lo Stato si prende il lusso o il diritto di essere assolutamente irregolare nei miei confronti. Ma lei crede adesso con questa infrazione, procedura di infrazione aperta, questo iter, che possa sbloccarsi qualcosa, oppure è scettico un po' come Cobianchi ci ha fatto capire? Sono assolutamente scettico, perché non è l'infrazione, la procedura di infrazione aperta dalla UE che possa, come dire, moralizzare il nostro modo di pensare, molto italico, no? Come dicevo, è un problema, io provengo da una famiglia, il nonno era ufficiale dell'arma e quindi ho sempre avuto l'idea che l'arma fosse un qualche cosa di sacro, lo Stato fosse un qualche cosa di sacro, ho cambiato idea. Ha cambiato idea. Ho cambiato idea. Questo è, secondo me, è il grosso tema, no? Cioè, o lo Stato si mette a fare la persona seria e quindi avrà, come giustamente deve avere, dei diritti nei confronti dei suoi cittadini, oppure non può stare in piedi la macchina sociale, ovviamente. No, ma è chiaro. Cobianchi, qui la situazione, tra l'altro arrivano anche domande via SMS, una interessante, ma poi in caso di infrazione dovessimo andare avanti un po' nel tempo, poi alla fine ce la ritroviamo a pagare noi cittadini. Alla fine dovesse finire male, cosa che io credo, dovremmo pagare delle multe, ma se posso spargere un altro po' di sale sulla ferita, io temo questo, che una grande parte di debiti sono in realtà debiti che le amministrazioni pubbliche locali hanno fuori bilancio e quindi non sono contabilizzate nel bilancio del comune, della provincia, della regione. Perché? Perché in base alla normativa, entro il 31 dicembre dell'anno scorso, le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare al Ministero del Tesoro la quantità dei loro debiti. Soltanto il 60% circa delle amministrazioni pubbliche lo ha fatto, quindi il 40% non lo ha fatto e già è piuttosto grave. Ma soprattutto la cosa che fa impressione, tra l'altro tra questo 40% che non l'ha fatto ci sono tre regioni, purtroppo il Ministero non dice quali sono, invece sarebbe importante saperlo. Questo 60% che ha comunicato quanti sono i loro debiti, hanno comunicato debiti per soli 3 miliardi, che è una cifra risibile. Quindi o dicono le bugie, che è possibile, oppure una buona parte dei debiti della pubblica amministrazione sono fuori dal bilancio. Insomma, che questa è anche un'altra, sarebbe una notizia abbastanza clamorosa. Io sentirei Walter, ci chiama dalla provincia di Chieti. Walter. Sì, buongiorno. Complimenti per il problema. Però non la mia testimonianza riguarda un semplice, sono un agente di commercio, sono andato in blister, ho preso un verbale dal comando dei carabinieri. Passati 60 giorni si è raddoppiata la multa, senza battere ciglio bisogna pagare il doppio dei 160, quindi sì. 300 e rotte euro, e senza poter dire nulla. Vabbè, questa è una vicenda un po' collaterale, però ci fa capire, forse a dire Walter, tra l'altro la linea non è delle migliori, che lo Stato quando pretende, quando deve dare non dà. Corrado Nela, lei, non so, scetticismo mi pare che ne abbia abbastanza, da 15 milioni che erano a maggio è salita a 16 milioni e mezzo, mi viene da dire, ma perché continuare a lavorare con la pubblica amministrazione? Perché lei dice, è il mercato, che devo fare? Sono un cliente come un altro, quindi non è così facile fare impresa scegliendosi i clienti, sarebbe un sogno, no? Se uno potesse scegliere solo i clienti puntuali, regolari o magari che ti pagano in anticipo. Ecco. Ma potesse dire qualcosa in conclusione alla politica, cioè avesse di fronte adesso il Presidente del Consiglio, in questo caso perché tra l'altro è tra i suoi clienti, cosa può dire alla politica in generale, che appello farebbe? Ma guardi, molto semplice, di smetterla di fare i buffoni, di fare le persone serie. Questo mi sembra semplice ma efficace. Ma efficace, condivido cosa ha detto il Presidente Squinzi, smettiamola di dire delle cifre per fare gusto di, dire delle cifre, facciamo le persone serie, lavoriamo e facciamo le persone serie, paghiamo i debiti, mettiamo le imprese nelle condizioni di fare impresa. Per concludere, lei una volta fece anche, staccò la corrente, leggo nell'intervista che fece a Marco Cubianchi, al 113, ma come il 113, quello proprio... la centrale operativa dell'Emilia Romagna, tre disalimentabili e li abbiamo staccati per alcune ore. Ma il 113, ore. Cioè la polizia, ma com'è possibile? Le giro la domanda, com'è possibile che la polizia non paghi il 113? E cosa è successo? Una volta staccato il 113 la gente chiamava al 113 in quel momento? È successo di tutto e di più, sono arrivate telefonate di tutti questori, prefetti, eccetera, eccetera. Io mi sono limitato a dire a qualche signor prefetto, a qualche signor questore che sarei stato lieto di prendere un loro assegno personale a garanzia del debito del 113. Com'è finita? L'hanno pagata almeno? Mi hanno detto un sacco di parolacce, mi hanno detto, non mi hanno pagato, non mi hanno obbligato a riallacciarli, ma non mi hanno pagato. Insomma, il 113 capisce che se c'è una rapina in corso uno che fa, o chiama il 112 o il 113, va bene, comunque quella vicenda almeno si è conclusa così, non benissimo. Io la ringrazio, grazie a Corrado Nela, amministratore delegato e socio di Exergia, così come a Marco Cubianchi, giornalista di Panorama. Rimarremo su questa vicenda, noi torniamo periodicamente. Voglio salutare un ospite con cui mi concentrerò a parlare nella parte conclusiva di 24 Mattino. Si tratta di Giuseppe Abbati, che saluto. Buongiorno Presidente, lei... Buongiorno a lei e chi ci ascolta. Lei è il presidente onorario dell'Associazione dei Consiglieri di Puglia, è stato consigliere regionale dall'83 al 90. Sono da lei tra un minuto, perché c'è una polemica sulla questione dei vitalizi della Puglia, anche il presidente Vendola si è espresso, ma sono da lei tra un attimo, stia con noi dopo il traffico. Allora, come detto, siamo con Giuseppe Abbati, presidente onorario dell'Associazione Consiglieri di Puglia, consigliere regionale in Puglia dall'83 al 90, per questo gode, come prevede la legge, di un vitalizio. Cioè, ci vuole dire a quanto ammonta, presidente Abbati? Sì, 5.000 euro. 5.000 euro netti, parliamo, 5.000 al mese. Sì. Allora, c'è stata questa polemica nei giorni scorsi per cui si dice, ma come, non so, un pensionato che ha 38 anni di lavoro alle spalle ha avuto il blocco delle pensioni l'anno scorso. Invece i vitalizi degli ex consiglieri sono rivalutati ogni anno del 3,09%. Intanto è così, effettivamente è vero, questa è la rivalutazione, presidente Abbati. Certo. E perché? Perché riguarda una legge fatta negli anni passati. E lei sa che questi aumenti automatici dipendono da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sì, che deve farle periodicamente ogni 30 aprile di ogni anno. Se non ci sono variazioni, rimane in vigore la percentuale dell'anno precedente, che è il 3,0 al Consiglio regionale, quindi non capisco perché qualcuno fa clamore di queste cose, è un fatto normalissimo. No, chiaro, normalissimo per legge, però ad esempio sa, i cittadini dicono quando si deve bloccare le pensioni, le rivalutazioni, quando si deve bloccare gli stipendi degli statali che sono bloccati da anni, ci si mette un attimo, no, a fare i provvedimenti. Certo. E invece... ma guardi, anche il Consiglio regionale ci ha messo un attimo a sospendere questo aumento, però è un atto illegittimo. Perché la legge lo prevede. Ecco, attenzione. Però tenga conto, mentre io sono un privilegiato, ci sono quelli che hanno la pensione di reversibilità, che prendono meno di 1.000 euro, e una famiglia con meno di 1.000 euro mi sa dire perdere il 3% se è un danno o meno. Ecco, perché la notizia è questa, attenzione, il clamore per questo aumento che c'era ogni anno del 3,09% è stato bloccato proprio perché vede che un po' di clamore l'ha fatta la cosa, e quindi è stato bloccato. Ha fatto clamore, ma soltanto per populismo. Perché non fa clamore il fatto che noi buttiamo 60 miliardi all'anno? Perché non fa clamore questo? 60 perché miliardi... la gente non pensa a fare il proprio dovere? 60 miliardi... Perché questa è la realtà. Diceva chi mi ha preceduto che bisogna essere seri. E questo è il vero problema. Incominciamo a programmare, a vedere le cose che dobbiamo fare. Pensiamo alle macro regioni, pensiamo ai gruppi europei di cooperazione territoriale che non si fanno in Italia. Questo dobbiamo pensare. Mi scusi, 60, i 60 miliardi. No, certo. È eccezionale. Ma perché non facciamo queste cose? No, certo, ma i 60 miliardi da buttare a cosa si riferisce? Cioè... Come? ma la corruzione. Ah, la corruzione. Eh no, beh, non mi mancava, cioè, immaginavo si riferisse a quello, cioè buttiamo 60 miliardi in corruzione e ci accaniamo per il 3,09% dei vitalizi. Che qualche famiglia che ha 1000 euro in più all'anno, che è una inezia, proprio una cosa ridicola, discuterne pure. Tra l'altro mi sembra una cosa fuori luogo, restituire 1 milione, ma dove stanno queste cifre? No, perché però, scusi, Vendola, il Presidente della Regione, ha detto questi aumenti del 3,09% sono in... prendere la mano, non ricordando le cose che ha votato in Consiglio regionale, ma che d'altronde può essere che un Presidente si dimentichi queste cose, stiamo parlando del 2010, però è un atto legittimo. Beh, però lui l'ha detto, sono stati aumenti inaccettabili, Vendola ha detto lui. Ma ho capito, ma lui non si è ricordato che era una legge regionale. Ma sì, però Presidente Abbati, che un ufficio possa non applicare una legge o l'applica a naso una legge, insomma, mi pare proprio una polemica fuori luogo. Però mi scusi, Abbati, nel momento in cui le cose cambiano, c'è la crisi che morde, ma uno d'accordo, uno può dire le cose, ma incominciamo a pensare ai funzionari della Camera, agli altri funzionari che prendono cifre iperboliche, il presidente dell'INPS, insomma ci sono delle cose che vanno riviste. Io sono d'accordissimo che debba rivedere tutto, ci sarebbe bene uniformare anche le leggi per i consigli regionali, secondo me va bene, però polemizzare sulle cose banali è ridicolo, è inutile. Bisogna invece c'è populismo, fare una legge seria di riordino. Io per primo dico facciamo le macro regioni, perché non facciamo le macro regioni? Vabbè, ma a me lo dice. Allora, però mi scusi, sono le cose per le quali noi ci dobbiamo misurare. Ringrazio Radio 24 che mi ha interpellato. Sì. Io speravo che fosse interpellato per una cosa molto più grave. La interpelliamo su questa vicenda che ha visto anche il presidente della Regione Puglia intervenire. Però guardi, vabbè, che Vendola. Lei dice, il presidente della Regione Puglia. Ha sbagliato Vendola. Però ha chiesto, oltre a bloccare l'aumento previsto dalla legge regionale del 3,09% all'anno, ha chiesto anche gli arretrati, ha detto è sbagliato averli dato in passati, quindi bisogna restituirli. Guardi, io non mi ricordo il suo nome, mi pare Alessandro. Alessandro. Milan, come la squadra di calcio. Il Presidente della Regione non ha titolo per bloccare una legge, deve fare un'altra legge. Quindi se fa una legge e chiede la restituzione bloccare. E se chiede la restituzione voi siete disposti a ridarli se lo fa per legge? Guardi, se noi facciamo un discorso di riordino generale possiamo rivedere tutto, come d'altronde noi abbiamo dichiarato di essere disponibili e lo facciamo a dare il 6%. Lo facciamo, come negli anni passati, nel 2006 furono bloccati i nostri stipendi per 4 anni, nessuno ha detto niente. Il 2010 c'è stata questa cosa, perché il 2006 erano stati fermati i nostri emolumenti, per quello c'è stata quella rivalutazione, perché dal 2006 al 2010 fu bloccato tutto. Se la gente non ricorda le cose, è logico che poi dice, ma com'è successo questo? Sembra una cosa caotica, ma non è così. Non è così. Vabbè, Abbati, comunque io intanto la ringrazio, poi quando parleremo di macro regioni ci segniamo il numero, insomma, così la richiamiamo. Il presidente onorario dell'Associazione Consiglieri di Puglia, dall'83 al 90 consigliere regionale, qui insomma c'è Vendola che dice queste rivalutazioni al 3,09% l'anno, previste peraltro dalla legge regionale, è un errore, è stato bloccato la rivalutazione di quest'anno e Vendola dice va restituite anche quelle degli anni precedenti, però su questo effettivamente forse ha ragione lei, non riuscirà a spuntarla. Ci fermiamo qui con 24 Mattino, ringrazio Miriam Lucchetti in redazione insieme ad Alessandro Marco Tulli e Elisabetta Fusconi, e invece il nostro alpino Peter Bescapè è tornato, com'è andata al Super Bowl? Hai giocato? Hai fatto un paio di minuti? Giocava a football americano. Vabbè, potete seguirmi anche su Twitter, il mio profilo Alino Milan. Potete dire ciò che volete, anche e soprattutto insulti. Alla prossima, a domani 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.